Respiro. Buongiorno ascoltatrici, ascoltatori, benvenuti a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. Cominciamo questa nuova puntata che abbiamo voluto dedicare al mondo delle multinazionali e al loro impegno che sta iniziando a crescere sul fronte ambientale. Un movimento, un'attenzione che nasce di fatto da una richiesta sempre più pressante fatta dai consumatori, e anche gli italiani stanno cambiando e starebbero diventando più attenti ai prodotti ecosostenibili. Lo dice un'indagine presentata giorni fa da Assocasa, secondo la quale il 30% di un campione di 1200 italiani intervistati ha dichiarato di dare moltissima importanza all'ecosostenibilità dei prodotti che acquista, e il 60% sarebbe disposto a pagare fino al 10% in più per prodotti certificati e quindi realizzati garantendo il pieno rispetto delle persone e dell'ambiente. L'attenzione maggiore è rivolta ai detersivi per la casa, ma si sta allargando al mercato in generale. La crisi economica sta facendo la sua parte, quindi quando uno spende fa più attenzione e pretende di più dall'azienda che produce, quindi certificazioni di sostenibilità, confezioni ecologiche, processi produttivi a basso impatto ambientale e sicurezza dei lavoratori. La conseguenza, come potrete immaginare, è forte ed è quasi rivoluzionaria, perché costringe le aziende a fare i conti con un nuovo mercato e non più solo con parole al vento. Il dato, l'andamento, è confermato da quasi tutti. Solo per fare alcuni esempi, in un solo anno sono aumentati di 1,5 milioni gli ettari di terra coltivati nel mondo con metodi di agricoltura biologica, 32 milioni complessivi per 1,2 milioni di produttori, ma questa è solo, come si dice, la punta dell'iceberg. Crescono i prodotti e le aziende certificate dal punto di vista bio ed ecosostenibili, e crescono anche i fatturati dei relativi settori, non solo per quello del food, agricoltura biologica, ma anche per il non food, in particolare per la cosmesi e per il tessile. L'ICEA, Istituto di Certificazione Etica ed Ambientale leader in Italia, conta oggi oltre 12.000 aziende, con un incremento del 68% dal 2007 al 2008 per le sole realtà no food, più 39% per la cosmesi, più 190% per il tessile, infine più 24% per l'edilizia. Aumentano anche le vendite dei prodotti del commercio equosolidale. Quelli a marchio Fair Trade hanno toccato il più 20% in Italia, dove le vendite a valore sono stimate in 43,5 milioni di euro nel 2008 contro i 39 milioni del 2007. Non solo, oggi Banca Etica, nata quasi come un'utopia 10 anni fa, ha una raccolta di risparmio che supera i 580 milioni di euro, cui si aggiungono gli oltre 230 milioni di euro di patrimonio affidato alla società di gestione del risparmio. Dunque, consumatori critici che influenzano il mercato e obbligano, se così possiamo dire, le grandi aziende a fare i conti con temi come ambiente e responsabilità sociale. Dati incoraggianti se li guardiamo dall'orto di casa nostra. Se però andiamo a vedere cosa sta succedendo in Africa e in Sud America, la questione si fa un po' più seria e meno sorridente, come ci racconta Maurizio Gubbiotti, che per Legambiente ha presentato il primo dossier sugli ecoprofughi. Noi possiamo partire da un dato che è quello dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, che nel 2007 dava il numero di persone costrette ad essere profughi, diciamo così, pari a 37,4 milioni. Bene, il 70% di queste erano profughi per motivi legati a catastrofi naturali, a problemi, diciamo così, a crisi ambientali. Partendo da questo dato, oggi però abbiamo una situazione che è molto più allarmante e che sempre le Nazioni Unite continuano a fotografarci come una situazione che al 2050 potrebbe vedere 200-250 milioni di persone costrette a lasciare i loro territori perché resi invivibili dai mutamenti climatici. Ed è qui il primo dato, cioè quello, oltre al fatto, diciamo così, che per la prima volta in questi ultimi, da un paio d'anni, diciamo così, il numero di profughi ambientali ha superato il numero di profughi da guerra, in un periodo in cui di conflitti nel mondo purtroppo ce ne sono molti. Un altro numero, 344 milioni di persone nel mondo sono esposte a cicloni tropicali, 521 esposte alle inondazioni, 130 milioni esposte alla siccità, mentre 2 milioni e mezzo sono quelle esposte a pericoli di smottamento di terreni, a frane. Questi dati sono seriamente sconfortanti, nel senso che 200-250 milioni di persone sono in fuga per i cambiamenti climatici nel 2050 sono un dato realmente impressionante, no? Come l'altro dato che lei citava, il fatto che il numero dei profughi per questioni ambientali sta superando il numero di quelli da guerra. Detto questo, adesso si sta assistendo a, come dire, a un atteggiamento di cambiamento, cioè le multinazionali stanno facendo qualcosa, si sta cominciando a fare qualcosa per arginare questo fenomeno o siamo ancora alla deriva? No, io credo che oggi stia succedendo qualcosa di importante, soprattutto sull'entrata nell'agenda politica, nell'agenda della politica mondiale, internazionale, di questo problema, e cioè un lavoro a livello internazionale molto più responsabile. Io credo che anche, diciamo così, la nuova presidenza degli Stati Uniti con le cose che dice, ma anche un protagonismo diverso di molti paesi, ad esempio dell'America Latina, di molti governi, oggi stanno andando in una direzione, e possono cambiare davvero molte delle condizioni. In questo le aziende oggi, e quindi anche le multinazionali, credo che stiano iniziando a fare i conti con la responsabilità sociale delle imprese, in maniera molto più forte anche a livello internazionale. Ecco, allora partiamo da qui. Partiamo anche dal concetto di cattive multinazionali. Le abbiamo chiamate così in maniera provocatoria e abbiamo cercato, sentirete fra poco, di farci spiegare come è cambiato il modo di fare profitto rispettando l'ambiente. Tra le multinazionali, una che su questo fronte ha lavorato davvero molto bene negli ultimi anni è stata la Philips. E allora abbiamo intervistato Aldo Bigatti, che lavora nell'area lighting di Philips Italia. Ma l'efficienza energetica per Philips è un imperativo. È un imperativo certamente per anche la sua impostazione di attenzione al sociale, questo è in dubbio, ma è sicuramente un elemento di sviluppo di business considerato importantissimo. In particolare, una grande opportunità è per il nostro settore illuminazione. L'attenzione all'energia è un'attenzione a 360 gradi. Voglio dire che questo parte da come si progetta un prodotto, pensando non solo all'energia che consumerà, ma quanto anche è l'energia consumata per produrlo, quanto è l'energia degli imballi che viene messa in gioco. Quanto è nei trasporti per fare arrivare la merce al consumatore finale. Quindi è un'idea di innanzitutto una produzione efficiente, una grande attenzione quindi all'ambiente. Non dimentichiamo che energia viene anche usata per lo smaltimento dei prodotti e quindi pensare fin dall'inizio, quando si progetta un prodotto, anche a quelli che saranno i costi poi eventuali di smaltimento. Quindi un ciclo completo di attenzione al rispetto dell'ambiente e al minore consumo di energia, che è anche efficienza poi produttiva, perché vuol dire produrre, se si è impostato bene i processi, anche a minori costi. Ma è essenziale perché il settore dell'illuminazione sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Oltre che le sorgenti tradizionali, sempre più efficienti, che vuol dire quindi non solo progettare nuove sorgenti luminose, nuovi apparecchi più efficienti, nuovi sistemi di controllo che permettano di usare la luce solo quando e dove serve, e quindi non sprecarla, ma dall'altra parte c'è la rivoluzione dei LED, quindi di questa tecnologia assolutamente nuova, che proprio perché è una tecnologia in una fase iniziale richiede ancora oggi enormi investimenti. Su questa tecnologia poi Philips ha deciso di avere una integrazione totale verticale, che vuol dire partire dalla produzione diretta del singolo LED per tutte le fasi intermedie dei componenti che servono a gestire i LED, e metto in evidenza che in questo caso con i LED il software diventa estremamente importante, perché con i LED entriamo con l'illuminazione nel mondo digitale, in cui il massimo di prestazioni le otteniamo proprio grazie anche alla facilità di gestire la luce attraverso il software. La domanda che mi viene da farle è, visto che siete una multinazionale e lavorate in tutto il mondo, quali sono le nazioni che stanno dando, come dire, che vi stanno dando più soddisfazioni sul fronte dell'attenzione all'ambiente, cioè dove il consumatore vi chiede a voi Philips più attenzione, più impegno sui temi del risparmio energetico, ma sull'ambiente in generale? Ma intanto diciamo che per un impegno etico che ha l'azienda, in qualunque paese noi siamo, rispettiamo delle regole che sono legate ai nostri principi di business, che indipendentemente dalla possibilità di sprecare energia, di utilizzare manodopera minorile, eccetera, vengono escluse dalle nostre principi etici. Quindi l'energia, la costruzione senza inquinare nell'ambiente in cui siamo, sono tutti elementi che noi portiamo indistintamente in qualunque paese Philips opera, perché fanno parte dei principi che ci siamo dati come azienda. Certamente le opportunità più grandi nello sfruttare i nostri investimenti a favore dell'efficienza energetica e della riduzione dell'impatto ambientale, perché le due cose vanno assieme, anche se non sono la stessa cosa, ma vanno molto assieme, sono nei paesi più avanzati e quindi dove le legislazioni si stanno muovendo decisamente in questa direzione. Senza citare Obama, che ha fatto dell'efficienza energetica uno degli elementi del nuovo motore della ripresa economica, pensiamo solo all'Europa, in cui delle leggi sono state fatte recentemente dal Parlamento europeo proprio per assicurare che gli obiettivi di riduzione del consumo energetico in Europa che ci siamo dati siano rispettati. Respiro. Seconda parte di Respiro, bentornati da Cristina Carpinelli. Dunque, sta succedendo quanto era stato già ampiamente anticipato dal movimento No Global. Certo, in quel caso c'era una modalità forte di rottura e di contestazione, ma è evidente che il mondo No Global ha anticipato molti argomenti che poi tutti hanno affrontato, anche i più grandi economisti e ricercatori. Un movimento intero di giovani, quindi stiamo parlando del movimento No Global, si era messo a sfrugugliare tra le carte di queste strapotenze, quindi delle multinazionali, che dominavano, dicevano, le nostre vite, ed era in quel caso nato un atteggiamento molto critico, sempre più critico, soprattutto rispetto ai consumi. E allora siamo andati a vedere quanto è cambiato l'atteggiamento delle multinazionali e delle grandi aziende italiane in questo caso in merito soprattutto ai temi ambientali. Cominciamo da Vodafone, che è una multinazionale da anni impegnata sul fronte ambientale. Allora sentiamo con quali progetti e come si sta muovendo. Caterina Torcia è manager per la responsabilità sociale. Vodafone nel mondo è certamente impegnata sui temi ambientali, che sono una priorità, pur non essendo le comunicazioni come industria in generale un'area particolarmente impattante dal punto di vista dell'ambiente, ma tenuto conto anche dei grandi paesi tipo l'India, evidentemente questa è una priorità, tant'è che il gruppo Vodafone si è data la riduzione del 50% delle emissioni di CO2 entro il 2020. E quali l'Italia... sono, scusi, i progetti che prevederanno una riduzione di questo 50%? Su cosa state lavorando? Ma si sta lavorando innanzitutto certamente sulla parte delle infrastrutture, quindi nel tentativo di con l'obiettivo di ridurre, di rendere più efficienti innanzitutto i consumi energetici. Quindi la riduzione della CO2 passa attraverso un primo obiettivo, che è quello dell'efficienza energetica, dopodiché che fa diciamo il grande dei consumi energetici sono le infrastrutture, quindi tutta la parte di rete certamente, e dopodiché c'è un secondo obiettivo, che è quello di usare anche comprare l'energia nuova, l'energia verde, diciamo così, la produzione di fonti rinnovabili, e dopodiché come last resource, come dicono gli inglesi, la neutralizzazione di quanto non si riesce a fare, ovviamente, perché poi non si può definitivamente azzerare l'emissione di CO2, questo è ovvio, e questi sono i tre grandi assi. E questo direi che è la primissima cosa che abbiamo fatto anche in Italia, cercando innanzitutto di capire se quanto, come dire, pagavamo in bolletta era effettivamente quello che consumavamo, perché non è scontato che sia così nemmeno nelle nostre case domestiche, come dire, no? Grande attenzione, stavo dicendo, alla rilevazione dei consumi, che è fatto sia dall'efficienza energetica degli impianti, ma anche ad esempio dai sistemi di condizionamento. Sappiamo che grande energia si consuma refrigerando, riscaldando gli ambienti, e quindi ad esempio nelle nostre centrali c'è un lavoro che è stato fatto anche di alzare ad esempio un grado, di un grado o più se è possibile, la temperatura di certi ambienti della centrale che devono essere refrigerati. Questi sono degli esempi molto concreti. Dopodiché si sta facendo della sperimentazione, come dicevo, sulle energie rinnovabili, e quindi con la produzione di antenne, in particolare quelle posizionate fuori dalle grandi città, per renderle in qualche modo autonome e quindi dotarle di pannelli, di impianti fotovoltaici per la produzione di energia. Questi sono degli esempi che riguardano le infrastrutture, quindi il lavoro che Vodafone sta facendo, come dire, su se stessa, no? Per rendere più efficiente. Dopodiché c'è il grande lavoro che stiamo facendo invece, che abbiamo chiamato My Future, per come dire, coinvolgere invece il grande pubblico, i clienti fuori, gli italiani tutti, sui temi ambientali. My Future è un grande progetto che in realtà ha come obiettivo ultimo quello di costruire impianti fotovoltaici nelle scuole d'Italia, finanziando dei canali, primo fra tutti la raccolta dei cellulari obsoleti, che noi facciamo da qualche anno nei nostri punti vendita ormai, pur non essendo noi notoriamente dei produttori e venditori di telefonini, no? I cellulari vecchi hanno un valore ormai, e quindi un mercato e quindi un prezzo, e quindi dalla rivendita dei cellulari usati il ricavato noi lo rigiriamo a un partner che poi ci costruisce gli impianti fotovoltaici nelle scuole. E questo è un grande canale, come dire, di finanziamento di My Future. Dopodiché via via si stanno aprendo delle altri canali, prima fra tutti citerei l'eco ricarica, che prevede il fatto che per ogni ricarica da 60 euro l'azienda dona un euro al progetto My Future. Siamo ormai alla soglia dei 100.000, questo se vuole una notizia perché non l'abbiamo ancora comunicata, siamo alla soglia delle 100.000 ricariche fatte, quindi 100.000 euro che l'azienda destinerà agli impianti, con 100.000 euro direi che siamo pronti per l'installazione di tre nuovi impianti. 6 ne abbiamo già fatti lo scorso inverno. E adesso sentiamo invece Rinaldo Rinolfi, che è manager della Fiat e che per la Fiat si occupa di motori a propulsione a metano. Sui temi dell'ambiente noi ovviamente abbiamo sempre lavorato nella riduzione delle emissioni secondo le normative europee regolamentate, ma in particolare direi ci siamo preoccupati di sviluppare sistemi di propulsione ad emissioni estremamente basse per gli ambiti urbani, ed in particolare la propulsione a metano, che diciamo sia nel settore degli autobus, dei carri raccolta rifiuti, ma anche recentemente nelle vetture, sta avendo un notevole successo per tutti i veicoli ad uso urbano. I tempi sono maturi, diciamo. Ma sicuramente, diciamo, questa crisi e questa prospettica crisi energetica in futuro e l'attenzione generale dell'opinione pubblica e dei governi alla riduzione delle emissioni CO2 ha dato una notevole spinta alla ricerca in questo settore, ma direi non già da oggi, ma già dagli ultimi 5 anni, insomma. Quali sono i progetti che Fiat sta guardando come fiori all'occhiello dell'azienda, cioè nel suo settore? Ma sicuramente, diciamo, noi adesso stiamo sviluppando le tecnologie per la riduzione delle emissioni di CO2 dei motori a benzina, tra cui il nuovo sistema di controllo elettronico delle valvole multi-air e l'introduzione del turbo, della sovralimentazione per ridurre la cilindrata dei motori. Queste due tecnologie consentiranno una riduzione del 20-25% delle emissioni di CO2 dei nuovi propulsori a benzina. Per quanto riguarda l'idrogeno, state lavorando a qualche progetto? Ma l'idrogeno è una soluzione di molto lungo termine che quindi non ci può aiutare sicuramente a risolvere i problemi della prossima decade e forse anche di quell'altro. Invece questi motori che riducono le emissioni di CO2 sono motori a benzina? Sono motori a benzina, o meglio ad accensione per candela, che però possono bruciare benzina, metano, tutti gli idrocarburi leggeri. Nella loro versione a metano consentono un dimezzamento delle emissioni di CO2. Ma ci sono già delle automobili che utilizzano questi sistemi o siete ancora in una fase di ricerca, di progetto? No, la fase di ricerca è conclusa, usciremo, la prima applicazione di questi nuovi motori avverrà a settembre sulla vettura Mito dell'Alfa Romeo e poi seguiranno ovviamente tutte le altre, cioè abbiamo iniziato la produzione dei motori e estenderemo l'applicazione a tutte le vetture progressivamente. Ma il mercato ormai è mondiale, diciamo, e quindi a parte il mercato europeo, che il nostro mercato domestico, ovviamente abbiamo il Brasile, l'Asia eccetera, e adesso con l'operazione Chrysler anche gli Stati Uniti, questa tecnologia dei motori a benzina la stiamo applicando anche, stiamo progettando di applicarla anche ai motori della Chrysler. Come si relaziona a voi il mercato asiatico che lei citava poco fa? Ma in Asia, diciamo, noi abbiamo una presenza sia in India che in Cina, intendiamo penetrare con i nostri prodotti e le nostre tecnologie. Certo che sia l'India che la Cina, che hanno 2,5 miliardi di persone, tutte e due hanno un livello di motorizzazione molto basso, quindi la crescita delle automobili in India e in Cina sarà molto elevata, però non potrà avvenire se non utilizzando sistemi energeticamente molto efficienti, se no questo accelererà la fine del petrolio. È tutto, Respiro termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata da Cristina Carpinelli.